se tutto va bene, si riesce a sistemare solo se stessi. Ed è già un gran bel risultato, perché è proprio in questo modo che si innesca un effetto a catena. Rob Reiner. Il cammino di Gigi D'Agostino. La musica benvenuta. E melodia, cassa, dia. Gigi D'Agostino questo sabato suona in Lombardia. A Capriolo, vicino a Brescia, discoteca La Fattoria. Dalle ore 22, lascia che sia. Discoteca La Fattoria. Gigi D'Agostino, tamarro bizzarro. Dai un poco sta cassa. Capito come? Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Benvenuti nel nostro giardino. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. L'amore è infallibile, non fa errori, perché gli errori sono una mancanza di amore. Andrew Bonar Law. Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. E che i miei quattro bambini possano un giorno vivere in una nazione dove non saranno giudicati dal colore della loro pelle, ma dal contenuto del loro carattere. Martin Luther King. Il cammino di Gigi D'Agostino. sono Patrick da Lagnasco. Sono all'ospedale con la tonsillite, ma riesco sempre a seguirti. Sei la mia medicina preferita. Puoi suonare lo sbaglio, perché è ciò che ho fatto. Mi sono vestito poco a Capodanno e così mi sono ammalato. Vorrei ascoltare lo sbaglio e dedicarlo a Gabri, per dirgli che, anche se sto con un'altra persona, non lo dimenticherò mai. Ciao Gigi, sono Dome. Volevo dedicare lo sbaglio ad una persona speciale, di nome Sonia, sperando che possa perdonare l'errore più grande della mia vita. Ti amo. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E questa vita mi ha messo in vita. Forse quel giorno era impazzita. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E se lo fa, sa quel che fa. Chi lo fa? Quando è che sbaglia? Quando ci dona o quando ci toglie? Chi lo sa? Quando è che sbaglio? Quando sto solo o con mia moglie? Chi lo sa? Quando è che è meglio? Sai per capire cos'è uno sbaglio? Nessuno sa qual è la soglia per poter dire diamoci un taglio. Chi lo sa se darci un taglio non sia frutto del proprio orgoglio? Non so più qual è il mio meglio se non si scioglie questo groviglio. Voglio dedicare lo sbaglio al mio Lorenzo, per dire che è stato lui il mio sbaglio migliore. Samuela da Messina. Di perplessità. Mando la pubblicità. Non giochiamo. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Cammino di Gigi D'Agostino. No, così. Gigi D'Agostino è lento, violento, poi forte e veloce, ma per qualche momento così mi sento. A volte incazzato, ma mai meschino. Ti puoi fidare, è Gigi D'Agostino.

Vorrei fare una canzone, anche solo per cantare. Gigi D'Agostino, una musica infinita che racconta la vita. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O. Here's the guy who's the talk of the town.

D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Dai, dai. Rallenta, va. Prima o poi arriva l'ora in cui bisogna prendere una posizione che non è né sicura, né conveniente, né popolare. Ma bisogna prenderla perché è giusta. Martin Luther King. Il cammino di Gigi D'Agostino. La musica vendetta. L'attività che si ritiene immune dalla pubblicità, prima o poi si ritrova immune da ogni attività. Taradattatta.

state viaggiando con Gigi D'Agostino. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Ho sentito la scossa. Davvero? Beh, deve sentirla la scossa. Ci sentiamo domani. Grazie.